9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, il gatto Oscar, venerdì 7 maggio 2010, spera che i mercati non ci riservino un'altra giornata come quella di ieri. Vi ha però avvisato da molto tempo che questa nuova crisi dell'eurodebito della seconda settimana di gennaio, da quando i mercati hanno chiuso le posizioni corte sul dollaro, è una nuova pagina del tutto paragonabile a quella della crisi di sostenibilità dei debiti degli intermediari finanziari, che fu lungo primo capitolo della crisi finanziaria dal fallimento del Lehman in poi e dell'economia reale. Questo è un nuovo capitolo altrettanto importante, lungo, problematico. La mia opinione è: non credete troppo a chi dice che è tutta colpa solo delle agenzie di rating. La sostenibilità del debito e dei deficit pubblici di molti paesi dell'OCSE è in questione, perché ha preso una curva di lungo periodo di difficile sostenibilità. È inevitabile che i paesi di fronte a questo debbano capire che ci vogliono conti pubblici e anche conti privati in regola. Questo perché vedrete che saremo di nuovo costretti a informarvi sull'andamento dei mercati finanziari dopo le botte di ieri, dopo anche la grande paura della borsa americana, quel meno 11% che ha fatto pensare per una mezz'ora che fossimo davvero in una giornata di abisso. Detto questo, oggi perché sono un pochino contento? Perché i risultati elettorali della Gran Bretagna, di cui parliamo oggi e che vi invito a commentare chiamando l'800 24 00 24 per dirci come la pensate di un paese così bipolare, in cui finisce il lungo periodo dei 13 anni laburisti, finisce soprattutto, certo, il grande sogno del laburismo pro market, filo mercato di Blair, ma finisce secondo me soprattutto poi il suo erede, il tempestoso borborigma permanente Gordon Brown, che ha per anni scavato la fossa a Tony Blair. C'era un famoso patto tra i due, dovevano guadagnare a metà per uno, poi Blair tese a non rispettare quel patto, anche perché secondo me è dotato di un carisma, di una forza, di un commitment, di un mandato da parte degli elettori enormemente più importante. E alla prova dei fatti si è visto che Gordon Brown, sia pur sfortunato da sempre nella vita, alle prese con la peggior crisi, proprio lui che si pensava l'unico in grado di reggere l'economia con credibilità, Gordon Brown alla fine ha portato i laburisti a una secca sconfitta. Detto questo, però, dobbiamo riflettere sul significato del paese che concentrava in Europa di più dell'industria finanziaria e che per questo quindi ha dovuto nazionalizzare il meglio delle sue banche ed è quindi in crisi da questo punto di vista, che si trova con un responso degli elettori che chiude un lungo periodo ma lo apre di nuovo, il nuovo capitolo successivo lo apre con molte incertezze. Vi leggo solo allo stato attuale dal sito del Telegraph, allo stato attuale dello spoglio dopo la notte dei seggi. Siamo al punto in cui, se il computer, certo, mi dà una mano, perché in questo momento il computer ha deciso di non rispondere a nessun tipo di... Eccola, dai, buono, ecco, vabbè. Comunque, dei 600 su 650 seggi per il momento attribuiti, i conservatori ne hanno 286, i laburisti 236, i liberal democratici, sorpresa di queste elezioni che tutti davano come la grande forza, Nick Clegg che li avrebbe portati chissà dove eccetera, 50, ed è sicuramente la maggior delusione. Quindi cosa succede? Succede che è molto difficile oramai, anzi perché è impossibile, che i conservatori che vincono con David Cameron le elezioni abbiano la maggioranza per governare da soli, dovranno tentare di formare una coalizione. Nel frattempo le regole del Parlamento britannico, uno dei più antichi delle democrazie rappresentative dell'Occidente, consentono per una decina di giorni, per due settimane, al premier uscente, cioè a Gordon Brown, di tentare di mettere in piedi comunque una coalizione. Quindi Gordon Brown, che non ha riconosciuto la vittoria dell'avversario, Gordon Brown è un testone terrificante che non cede mai campo neanche quando è sconfitto, soprattutto quando è sconfitto, ha la possibilità quindi di provarci e di vedere un pochino se con partiti irlandesi nazionali, non credo, liberal democratici, può arrivare a una improbabile maggioranza. È ovvio che il bastone passa a David Cameron, ma tentiamo di spiegare ai nostri ascoltatori il significato vero di questa, di questa scelta dei britannici. Lo facciamo con i nostri ospiti, innanzitutto Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, che ringrazio perché ha avuto una nottataccia ovviamente inseguendo i risultati. Buongiorno Maisano. Buongiorno a voi. E Richard Newbury, mio caro amico, saggista, storico, editorialista della Stampa. Buongiorno Richard. Buongiorno. Allora, Maisano, se dovessimo dare agli ascoltatori non troppo esperti, diciamo così, al di là di quello che leggono dalle scuole che hanno frequentato David Cameron e gli altri, Nick Clegg e Gordon Brown, ma in realtà il significato più netto di questa prospettiva un po' incerta, ma con un partito che comunque torna dopo tanti anni a essere quello che vince, qual è secondo te? Beh, senz'altro l'avanzata è la vittoria non risolutiva dei conservatori e la caduta dei laburisti, anche se rispetto a tutte le previsioni iniziali, come notavi giustamente tu, il ridimensionamento dei liberal democratici cambia le prospettive in qualche modo di formazione del governo, che sono quanto mai incerte, molto più incerte questa mattina di quello che apparivano nella notte, quando a un certo punto sembrava che i conservatori stessero, come dire, sfondando di più sui seggi marginali e quindi arrivando a superare la soglia dei 307-310 seggi che attualmente viene attribuita con le proiezioni sugli ultimi seggi da contare. Quindi nella notte, dicevo, c'era la sensazione che a un certo punto i conservatori andassero più avanti, in realtà sembrano essersi fermati a quelle che erano state le previsioni degli exit poll iniziali. Da questo punto di vista, la coalizione, diciamo, più naturalmente probabile, visto le posizioni di Dale Cameron, su cui naturalmente poi dobbiamo un po' approfondire, con chi è tra i partiti che hanno eletti, oltre ai tre maggiori? La coalizione naturalmente probabile, o comunque la coalizione più naturale, sarebbe liberal democratici e laburisti. Il problema è che, come stanno le cose, non hanno la maggioranza neanche loro del Parlamento e quindi si passa all'ipotetica intesa conservatori liberal democratici, che avrebbe la maggioranza, ma che secondo me resta estremamente problematica sul piano proprio delle intese su capitoli di fondo, prima di tutto la riforma elettorale, che per i liberal democratici a mio avviso resta l'unico punto inderogabile alla luce anche di questo risultato, perché ricordiamoci che loro hanno preso molto meno del previsto, ma il 23% circa dei voti, si ritroveranno con 50 deputati, cioè circa 6 in meno di quelli che avevano, 5 o 6 meno, qualcuno meno di quelli che avevano nel 2005, quindi per loro sarà essenziale procedere con la richiesta di una riforma del sistema elettorale in chiave proporzionale, cosa sui quali i conservatori credo che resisteranno. Forse Nick Clegg, la sua qualifica di eurofilo, di aver lavorato a Bruxelles e così via, che tanto entusiasma i suoi sostenitori in Italia e in Europa. In Italia ha molti sostenitori, anche perché in realtà è un proporzionalista. In Italia tutti quelli che vogliono superare il maggioritario bipolare hanno Nick Clegg oramai come altarino. A me fa un po' ridere questo, ma detto questo, forse la qualifica di eurofilo non ha fatto bene, visto quello che succede sui mercati e all'euro, ai liberal democratici, oppure questo fatto è stato del tutto rilevante rispetto al successo, o all'insuccesso, insomma, che hanno avuto rispetto alle attese, secondo te, Maisano? Ma secondo me è stato, devo dire, l'aspetto europeo non è stato essenziale nella scelta nell'andamento del voto, nel senso che probabilmente negli ultimi giorni, cioè l'andamento, la questione greca in qualche momento, in qualche misura avrà certamente influenzato, però la realtà è che a un certo punto il sistema elettorale ha indotto gli elettori a ripolarizzarsi sui due grandi partiti, a rendersi conto che il voto ai liberal democratici era un voto, come dire, perso, e questo ha ridato il risultato tradizionale, diciamo, quello dei due grandi partiti che si confrontano, lasciando ai margini la terza forza. Richard Newbury, prendere il governo del Regno Unito in questo momento, col deficit e con questa industria finanziaria che era un po' l'interlocutore naturale con cui Tony Blair all'inizio impostò il New Labour, oltre alla modifica della clausola 4 dello statuto, picchiando un po' in testa le unions e negandogli loro il diritto di pesare quello che pesavano prima di Tony Blair nella rappresentanza e nella leadership del partito. Ecco, però con l'industria finanziaria in ginocchio, questo deficit ereditato per far fronte alle nazionalizzazioni bancarie, eccetera, eccetera. Certo, il rischio è di governare ma beccarsi un'impopolarità, non dico come quella di Gordon Brown, ma insomma è difficile fare qualcosa di molto diverso. E quindi, diciamo, dal punto di vista dei conservatori, di questa nuova generazione di conservatori, che io non sono mai riuscito molto a capire, che abbandonano il taccerismo, che scoprono l'importanza della società, della solidarietà, che vanno tutti in bicicletta, che sono tutti verdi, hanno tutte le pale eoliche sulla testa, come appunto David Cameron. E che cosa poi in realtà può fare davvero di popolare o di diverso da Gordon Brown, secondo te? Allora, cioè, tutti i partiti sono coalizione, quindi noi facciamo delle coalizioni prima delle elezioni, non dopo, quindi sia conservatori, laboristi e soprattutto anche i democratici, che sono una coalizione un po' difficile fra liberali e anche liberali economici e socialdemocratici. Quindi se vanno con, ci sono una parte dei liberaldemocratici che possono andare con i conservatori, una parte che potevano andare con i laboristi. I conservatori, David Cameron voleva avanzare nel territorio liberaldemocratico con tutto il suo cambiamento del partito da 2005, a fare la marca conservatore meno tossico, si può dire. In quello che ha avuto successo, nel senso che questo è il più grande avanzo conservatore dal tempo del 1931, ma anche in 1931 è arrivato come governo nazionale, anche lì in una crisi economica. Quindi non è i liberaldemocratici, anche essendo già una coalizione, è possibile, i laboristi vogliono fare una coalizione progressiva, eccetera, ma non so se tutti vogliono andare con i laboristi, anche perché se sono il nuovo e portano il vecchio, non sembra un buon augurio per un'altra elezione che secondo me sarà abbastanza presto. Quindi la storia da questo punto di vista degli hung parliament, cioè dei parlamenti appesi britannici, che poi alla fine si va a rivotare abbastanza presto, non è che si impazzisce nel tentativo di convergenze innaturali, per così dire. Ma Isano, è comunque un po' un ricorso storico, diceva Newbold, il fatto che di solito i laboristi nelle grandi crisi economiche finiscono per passare la mano poi ai conservatori. La Thatcher si trova in mano un paese che era deindustrializzato, bloccato dagli scioperi, è noto con quale ricetta all'epoca, ma i tempi sono diversi, lo rimise in piedi. Negli anni 30 accade la stessa cosa, ma in realtà tu da osservatore questa svolta dal 2005 in avanti di David Cameron, tutta appunto solidale, sociale, questa immagine più, molto più calda rispetto alla durezza della baronessa di ferro che diceva la società, ma non esiste, esiste solo l'individuo, tutto questo ha messo radici vere negli ceti popolari da parte dei conservatori, cioè nei seggi che cambiano di segno, ecco, da quelli già attribuiti dei 601, si vede davvero questa avanzata anche nelle parti popolari a basso ceto e a basso reddito dei conservatori, delusi sia da New Labour oramai degli anni di quelli brillanti di Blair, che dalla nuova versione ultima di Gordon Brown? No, secondo me ha pesato moltissimo, al di là di qualsiasi, come dire, valutazione ideologica o di programmi, del cambiamento indubbio delle politiche di Cameron rispetto a quelle thatcheriane, anche se le politiche di Cameron non sono così chiare, sono piuttosto confuse. Il concetto di grande società è un concetto molto da definire, un bello slogan che però non riesce a trovare. Quindi secondo me questi non sono i messaggi che hanno come dire bucato il video rispetto con gli elettori conservatori. C'era una grande volontà di cambiare, di cambiamento, e infatti, come dire, la popolarità che poi non si è tradotta in voti di Clegg nasceva dal fatto che a un certo punto Clegg aveva preso lui, come dire, lo scettro dell'innovatore, era apparso lui più nuovo di Cameron. Questa era, come dire, la situazione fino a ieri. Poi negli ultimi giorni lo scenario secondo me è cambiato, perché c'è stata una ripolarizzazione, come dicevo, del voto. Però io non credo che il messaggio conservatore sia riuscito veramente a entrare in modo stabile e indicando, come dire, un cambio davvero, come dire, di propensione ideologica. C'è stata in realtà la volontà di cambiare e di chiudere con l'era di Gordon Brown. Questo secondo me è l'indicazione vera. Richard, ma concordo, scusami se ti interrompo, concordo con l'idea che di Richard Newbery che si andrà presto ad altre elezioni, cioè perché se si va verso un governo di minoranza conservatore, che sembra una delle ipotesi, fra le ipotesi sul tappeto, quella più probabile in questo momento, è difficile che possa durare per 4-5 anni. E questo a me sembra per esempio una buona regola, un buon principio, una buona prassi, non è una regola di una grande democrazia parlamentare. In Italia si impazzirebbe invece coi governi tecnici, i governi dei presidenti, avremmo i grandi quotidiani autorevoli del nord che spiegherebbero che ritornare a votare è sicuramente una cosa pretestuosa e che metterebbe a rischio l'Italia. No, le grandi democrazie fanno scegliere gli elettori hanno ogni tanto, in Gran Bretagna dove c'è il first past the post, c'è un maggioritario secco, uninominale, che Dio glielo preservi, se posso dire, per questo io non amo i Lib Dem che vogliono il proporzionale. Se gli elettori poi ogni X elezioni hanno un esito che non garantisce la governabilità, si torna a votare senza che a nessuno passi per la testa, come in Italia, di considerare il ritorno al voto come una specie di avventurarsi nelle perigliose acque dell'oceano. Ecco. 9:33, 30 secondi, stiamo parlando alla trasmissione di oggi dei risultati del voto in Gran Bretagna, un voto che vede attualmente, secondo le ultime proiezioni, attribuiti ai conservatori di David Cameron, che hanno comunque vinto la maggioranza dei seggi, però un numero di seggi non sufficiente a avere la maggioranza assoluta nei 650 seggi della Camera, perché le ultime proiezioni attribuiscono loro al Partito Conservatore 305-306 seggi, mentre invece sulla base delle proiezioni ai laburisti andrebbero 262 seggi, ai liberal democratici 55, un po' la grande delusione di questo voto dopo il cancan che c'era stato intorno ai dibattiti televisivi in cui il leader dei liberal democratici Nick Clegg era sembrata un po' la nuova stella, ecco, che avrebbe potuto cambiare significativamente il corso della tradizione di questa forza politica, che tradizionalmente negli ultimi elezioni cresce, va oltre il 20%, ma poi non diventa mai significativa per la legge elettorale e per come sono disegnati i collegi in Gran Bretagna ai fini del governo del paese. 27 gli altri seggi attribuiti alle altre formazioni tra partiti nazionalisti e formazioni irlandesi. Vorrei chiedere a William Ward, che c'ha, giornalista del Foglio, di Panorama, che ci ha raggiunto. Buongiorno William. Ciao Oscar, buongiorno a chi ci ascolta. Ecco, vorrei chiedergli, visto che lui come Richard Newbery, che è rimasto con noi, conoscono bene anche la realtà italiana, la complicazione della realtà italiana. Allora, immagina William di avere a che fare con un pubblico che non è molto esperto, non sono i lettori del Foglio che si divertono a seguire tutti i meandri, tutti i tic dei politici britannici. I nostri ascoltatori hanno un'idea di chi sono i tre leader dei partiti. Già secondo me, se dovessi chiedere ai nostri ascoltatori se hanno un'idea precisa di come la pensa David Cameron, ammesso che sia facile dare una risposta a questa domanda, il nuovo leader conservatore, non saprebbero bene come risponderci. Direbbero che è un erede della Thatcher e sbaglierebbero, perché non ha quasi niente in comune con la signora Thatcher. Però allora ti chiedo, William Moore, facciamo questo giochino, tentiamo, per far capire a chi ci ascolta, di collegare Gordon Brown, il perdente uscente, David Cameron, il leader conservatore vincente ma che difficilmente governerà, abbiamo capito che riandrete a elezione presto, e soprattutto Nick Clegg, anche il centrista un po' di sinistra, un po' di destra, che vuole il proporzionale. Questi tre personaggi, conoscendo la politica italiana, tu a chi li accosteresti in Italia per fare capire a chi ci ascolta chi ha vinto e chi ha perso e perché? Ah, questo sarebbe molto difficile, Oscar, anche perché per lunga come dire, politica editoriale il Foglio nella persona di Giuliano Ferrara mi ha sempre vietato di fare accostamenti fra personaggi. Apposta te lo chiedo. Quindi, in qualche modo avevo fatto 10 giorni fa un accostamento, un paragone fra Nick Clegg, la bolla, come dire, mediatica della sua emergere come figura chiave quasi carismatica a Silvio Berlusconi del 94, questa figura che si era, che dopo paragonando invece David Cameron al ruolo di Mario Segni subito dopo i travagli, diciamo, di Tangentopoli, cioè proprio nel momento in cui Segni sembrava quello che doveva strappare la corona del leader di un... Attenzione, William, stai dicendo quindi che Nick Clegg, cioè il leader dei Liberali Democratici, che questa volta è una delusione, quando si riva a votare potrebbe essere poi il leader della Gran Bretagna che al posto di David Cameron, cioè se fai un paragone che lui è più vicino a Berlusconi mentre David Cameron è più vicino a Mario Segni. Due settimane fa, con questo straordinario emergere del personaggio Clegg, che all'improvviso era in cima ai sondaggi, sembrava un po' come quel momento quando Segni, che poteva essere il vero leader di un nuovo centrodestra moderato italiano riformista, ma invece ha avuto un momento di esitazione, poi non si è candidato alla fine ed è entrato, come dire, quasi come una gazza ladra, che è l'uccello che entra sul nido dell'avversario per covarci le uova, così sembrava di vedere nel ruolo di Nick Clegg qualcuno che non aveva fatto tutti gli sforzi che ha fatto questo David Cameron, di cui i vostri ascoltatori magari sanno poco, ma invece è un leader molto determinato, molto chiaro nella sua visione, che ha voluto riformare il suo partito, quello dei conservatori, per creare una cosa più moderna, più per certi versi Obamiana, direi. E invece sembrava che fosse proprio Clegg che ne avrebbe strappato i risultati, però con la loro, direi, saggezza secolare, gli elettori inglesi si sono diffidati da questa, appunto, di questa figura un po' da un giorno ad una notte, e non l'hanno premiato, anzi addirittura è stato addirittura punito dagli elettori. Il filo Cameron, che davvero ha lavorato molto in questi anni per poter proporre all'elettorato britannico una tesi nuova di un partito di centrodestra, si è visto, come dire, non interamente riuscito nella sua impresa. Gordon Brown invece paragonerei non tanto ad un altro italiano, se non per la sua straordinaria spocchia e presunzione di credere di essere l'unica figura capace di capire il gioco politico, quindi Massimo D'Alema, direi che una figura internazionale al quale lo paragono molto spesso nei miei pezzi è Richard Nixon, uno certamente intelligente, ma che ha una grande difficoltà a capire, a relazionarsi a livello psicologico con la psiche collettiva. Ecco, tricky dicky, come si diceva di Richard Nixon, anche una personalità, insomma, un po' complessa dal punto di vista dell'etica e della morale. Direi che nonostante queste dichiarazioni bacchettoni da calvinista scozzese, quello con il padre predicatore calvinista di cui si copre Gordon Brown, è un uomo che poi ha distrutto la carriera del suo amico rivale Tony Blair, che era stato legittimamente eletto dal popolo britannico 3 volte per subentrarli. Gordon Brown è stato in questi 3 anni, Oscar, un primo ministro illegittimo, abusivo, cioè vogliamo non scelto dagli elettori, certamente. Esattamente. Richard Newbery, ci aiuta un secondo a capire invece questo nuovo conservatorismo sociale, dice William Board. Io non lo so se sia davvero così e se sia davvero un complimento dire che la versione britannica dell'obamismo nel campo invece più liberal, più di sinistra americano, non so se davvero questo sforzo di cui David Cameron è protagonista da anni, di una visione del mondo conservatore britannico molto più vicina ai problemi della gente che ha meno e molto più capace di essere calda rispetto alla visione spietata, mercatista della Thatcher, abbia davvero dei tratti obamiani. Io anzi spesso, devo dire la verità, leggo i documenti con le proposte concrete del partito conservatore di David Cameron e dei suoi uomini e spesso non capisco tecnicamente cosa propongono, cioè mi sembra un po' ma anche, come dice diceva Veltroni in Italia, però magari sbaglio io. Allora, siccome lei è un grande raccontatore e divulgatore della storia dei movimenti politici e delle grandi figure di riferimento britanniche, ci aiuta a capire meglio questo conservatorismo di David Cameron, se è un fenomeno effimero che serve a vendere meglio una vecchia idea e gli cambia un po' solo la superficie esterna, ma è sempre la vecchia idea conservatrice, o se è qualcosa davvero di radicalmente diverso nella storia del partito Tory britannico? Lei come la vede, Richard Newbury? Parliamo di che i conservatori sono sempre stati sociali, hanno vinto per quello. Per esempio la perdita del 97 è stata il peggiore da 1832. Dopo quello c'era Peel, che è dotato ovviamente il libero mercato, ma anche a quasi tutte le azioni di sociale o delle leggi sociali del 800 e poi del 900 sono stati conservatori, e quindi e gli altri sono stati liberali. Quindi non è nella lunga storia di questo partito, trecentenni, è sempre stato un partito molto vicino al sociale. Quello, il radicalismo della faccia, si può dire che noblesse oblige di, per esempio, Macmillan, Hume, è stato superato da un certo rivolta dei contadini, quando c'era la faccia e poi Heath e poi faccia e poi Major, una rivolta piccolo borghese. E Cameron è molto più nel vecchio stile conservatore. Il fatto che è così tipicamente conservatore lasciava a lui a cambiare il partito molto, a riflettere. Il problema che lui ha avuto in 2005 è che la maggioranza dei membri di partito, la media era 65 anni, bianco, che non erano contenti con l'Inghilterra in cui vivevano. Ora c'è un partito che riflette, proprio il paese intorno. Certo, quindi insomma è una realtà, un valore, una tradizione fortemente radicati nella storia di tre secoli del conservatorismo britannico. Io un po' apposta ti ho fatto la domanda così, Richard, perché invece nel nostro paese, lo sapete, William e Richard, spesso si tende a spacciare l'idea che il partito Tory sia un partito di freddi tecnocrati e ci si ferma solo alla Thatcher, cioè al momento in cui c'era bisogno della versione più hard, in cui si diceva c'è solo l'individuo, non c'è la società, ma perché serveva a rimettere un paese in piedi che era a pezzi ed era bloccato per tre giorni alla settimana dagli scioperi dei minatori, e quindi era una scelta radicale che però l'intera stereo parabola del partito conservatore britannico era più un'eccezione di durezza di quanto non sia invece la storia vera. Quindi io sono totalmente d'accordo con questo che diceva Richard Newbury. 9:46 e 39 secondi, una novità di quelle di cui leggerete domani sui giornali, che impronterà anche la giornata finanziaria di oggi, perché Moody's, l'agenzia di rating che ieri ha gettato nel panico le borse soprattutto dei cinque paesi europei, che ha indicato come i nuovi sospettati dopo la Grecia e naturalmente la Spagna, il Portogallo, l'Italia, la Gran Bretagna, nel giorno in cui si va l'Irlanda, Moody's, dopo le reazioni che ci sono state, la Banca d'Italia, la BCE ieri, la lettera congiunta di Sarkozy e della Merkel, che il Moody's sta per presentare a Milano un report dedicato all'Italia, di cui è stato anticipato le prime frasi, e Moody's o ha cambiato idea oppure, perdonate, ci dà la conferma che queste agenzie di rating non sono molto attendibili. Cosa dice Moody's oggi? Dice che l'Italia non è, sottolineo, non è tra i paesi più a rischio. Vi leggo la frase: l'Italia non è tra i paesi più a rischio e fra quelli colpiti dalla crisi, perché non è stata in prima linea durante la crisi finanziaria globale, non lo è neanche ora che la crisi finanziaria si trasforma in crisi del debito pubblico. Questo è un lancio d'agenzia che dice dell'ANSA, quanto si legge nella pagina di apertura del rapporto dell'agenzia di rating Moody's dedicato all'Italia, intitolato La sfida italiana, contenimento del debito con bassa crescita, che verrà tra poco presentato a Milano. Quando le agenzie di rating hanno posizioni così ondivaghe e sono così soggette alle reazioni dei mercati e dei governi interessati, vuol dire no che sono deboli e che sono forti le voci improprie che reagiscono, vuol dire che non hanno una propria capacità di elaborazione seria e la crisi della loro serietà corre di creare conseguenze molto forti, corre il rischio di creare conseguenze molto forti. Ma torniamo alle domande, due domande ai nostri ascoltatori, cominciamo con Federico da Alessandria. Prego Federico. Buongiorno dottor Giannino, io vi ho mandato un sms, mi avete chiesto di portare la domanda in diretta, un eccoci sms qua. Stecco che nasceva da un mio ragionamento sulla storia dell'Inghilterra e dei suoi partiti, che non le faccio, a meno che non me lo chieda, perché dura una quarantina di secondi. La domanda secca è: secondo me, basandomi su questo ragionamento, basato su storie e conoscenze, non escludo che, visto la storia dei Tory, Cameron possa chiedere all'alleanza dei 25, 27, 28 partiti nazionalisti Seggi, e governare tranquillamente con loro. Questa è, bene, questo che chiediamo, un ragionamento logico è per me, che nasce dalla storia dei Tory e del Regno Unito, del perché c'è il turno unico nel Regno Unito. Va bene, tra l'altro non ci si occupa abbastanza dei risultati che hanno avuto all'elezione UK Independence Party, e poi vedere un po' cosa è successo nella rappresentanza irlandese. Lo giriamo ai nostri due ospiti, poi Luigi da Forlì. Prego Luigi. Ah, buongiorno. Volevo una considerazione veloce, siccome sono spesso in Inghilterra per lavoro, quindi è un paese che conosco bene, e diciamo la svolta di Cameron per quanto riguarda l'aspetto ambientale è dovuta sicuramente al fatto che, forse la gente non lo sa, ma l'Inghilterra è il paese dove la spinta ecologista è la più forte al mondo, il 95% della popolazione ama le tematiche ambientali ed è sensibile a questa cosa, questa velocemente. E l'altra cosa è che proprio perché le due posizioni si sono avvicinate tantissimo, ormai i due non c'è quasi differenza fra i laburisti e i conservatori nella posizione, cioè sono talmente simili per cui Luigi, che non si vive l'atmosfera di permanente guerra civile, che è un po' quella del rapporto tra opposizione e maggioranza, qualunque siano gli scambi dei due termini di colore politico, in Italia, dove noi viviamo nella guerra civile permanente, una guerra per banda, un'espressione tribale, roba da premoderna, ecco, perché noi associamo a quello l'idea del bipolarismo maggioritario. Invece in Gran Bretagna c'è questa bellissima idea di questa sala verde, no? Con i seggi seduti uno di fronte all'altro senza che nulla li separi, in cui ci si alza e il capo dell'opposizione e invece il portavoce del governo o il primo ministro spesso parlano durissimamente, rivolgendosi con delle battute ironiche e taglienti a 2 centimetri dalla faccia degli avversari, che ridono, fanno al massimo in Parlamento, non come succede a noi in televisione, in cui magari ci si insulta, si mandano a farsi fottere i giornalisti, come oramai è diventata prassi nella comunicazione politica italiana. Noi siamo un paese tribale, ecco, questo è il punto, secondo me, rispetto alla grandezza dei paesi che hanno secoli di democrazia rappresentativa, anche perché hanno tagliato la testa ai re molto prima di noi, tanto per essere chiari. Allora, la domanda che faccio a William Ward: come sono andati, da quello che si capisce, i partiti nazionalisti e le rappresentanze irlandesi al Parlamento? Ci sono significative novità, un avanzamento oppure no? Guarda, dei tre paesini della cosiddetta frangia celtica, il risultato è diverso, anche perché da una parte c'è Galles e Scozia, che sono i due paesini che di cui una sostanziale fetta dell'elettorato pretende una maggiore autonomia, persino fino alla secessione, mentre nell'Irlanda del Nord ci sono quelli cattolici separatisti, mentre c'è anche il partito unionista che vuole mantenere a tutti i costi un'unione con il resto della Gran Bretagna, anche se loro hanno in mente spesso un'unione, un Regno Unito un po' del passato, più imperialista. Dunque, in Irlanda del Nord è stato il primo risultato clamoroso della lunga nottata, quando Peter Robinson, il leader del partito degli unionisti hard, quindi attualmente al governo in questo governo strano di coalizione con quelli dello Sinn Féin, ha perso lui il proprio seggio, quindi non sarà rappresentato a Westminster, è subentrato una figura meno quindi estremista. Quindi la linea diciamo, dura punita dagli elettori. Ma non proprio, perché il partito della linea dura, di questi del Democratic Unionist, è stato punito, Peter Robinson, non tanto per la linea del partito, ma udite udite, in base ad uno scandalo in cui la moglie di questo Peter Robinson qualche mese fa aveva preso un amante di 22 anni, lei quasi sessantenne, poi si era scoperto peculato, cose, storie molto molto oltre i più, come dire, i più curiosi scandali italiani di a base di sesso, addirittura molto oltre. Ah, però molto oltre. Questo quindi tutto quindi, il mondo e il paese, va bene. Esattamente, quindi Peter Robinson è stato punito in questa maniera. Sinn Féin, quelli appunto degli repubblicani, cioè quindi unionisti con l'Irlanda del Sud, hanno che poi non si presentano mai a Westminster a votare, quindi sono, come dire, delle elezioni inutili, ma che hanno una valenza simbolica politica, hanno mantenuto la loro posizione. Quello più interessante invece è in Scozia, dove il Partito Laborista, che in opposizione nel parlamentino scozzese, dove vige da due anni l'abilissimo e lo scaltrissimo leader dei nazionalisti indipendentisti Alex Salmond, che sarebbe molto come la Lega italiana, non fosse che è di sinistra abbastanza estrema e non populista di destra, è populista di sinistra. Dunque in queste elezioni Alex Salmond non è andata particolarmente bene, ha perso qualche seggio e il Partito Laborista Nazionale, attualmente in opposizione nel parlamentino scozzese, si è ripreso diversi seggi. I conservatori, che si dovevano rifare una qualche presenza scozzese, dove negli anni 50 erano il partito di maggioranza relativa, sono rimasti bloccati ad un solo seggio su 60, Oscar. Però la situazione è leggermente migliore in Galles, dove i Tories, i conservatori, si sono conquistati 2-3 seggi, ma poco roba, e di nuovo la contesa forte fra quelli laboristi, i liberal democratici e gli indipendentisti del Plaid Cymru, che stanno andando discretamente bene. Discretamente bene. Domanda, risposta secca invece per Richard Newbury. Cameron sarà capace di segnare di sé i prossimi 12 anni, 10 anni della politica britannica, come fece Tony Blair cambiando l'identikit del suo partito? Sì o no, secondo te? Chiamato sempre Ed Blair, quindi lui deve molto a Blair, effettivamente lui vorrei continuare il lavoro di Blair. Sì, questo è un grande avanzo, si può dire, perché è una, lui ha preso la più grande percentuale anche di Blair all'ultima elezione a questo momento. Lui, sua grande idea, effettivamente, che Gordon Brown è tipicamente scozzese, perché questo è un altro piccolo punto, sì. Vuol dire che in Inghilterra, che sono il 92% della popolazione, i conservatori ormai hanno più voti, ma anche avranno più seggi questa volta, mentre in Scozia è sempre stata una roccaforte della sinistra statista, e questa è la cosa, che Brown è per ogni problema sociale lui ha una risposta statale. Esatto. In modo molto più tipico, anticamente inglese, che Cameron pensa che è una questione di società, dobbiamo fare da noi, dobbiamo fare a livello locale, come anche in nostra elezione. Bisogna ricordare che questa non è una elezione nazionale e ci sono 650 diverse elezioni per rappresentanti. Esatto, e su questo io devo dire che per questo preferisco questo, quel grande paese e l'idea di una società che finalmente riprende in mano rispetto alle risposte dello Stato. Mi dispiace per gli ascoltatori che dicono che io e Sallusti meriterei anche peggio per la faziosità. Ho fatto un riferimento al fatto che i politici che in televisione dicono vai a farsi fottere, secondo me sono politici che perdono la testa, e se la risposta sono le cose che meriterei ancora di peggio, vuol dire che siete marci nel cervello a mandarmi questi sms. Ve lo dico con grande mancanza di rispetto, perché cerchiamo di rispettarci tutti. Se pensate che i giornalisti siano pagati da qualcuno o da politici, io non sono pagato, sono qua pro tempore, non mi paga la rappresentanza di interessi né un politico, quindi non mi mandate messaggi in cui si dice che merito di peggio che insulti. Nessun giornalista, se fa bene il suo mestiere, merita insulti, perché qui siamo solo per farvi votare a capire, e cambiamo e ruotiamo i nostri punti di vista perché rispettiamo i vostri. Viva la Gran Bretagna, questa è la conclusione mia di questa giornata, appuntamento a lunedì, grazie a Filippo Reggi, regia e redazione, Alessandro Marco Tulli, linea al Giornale Radio.